l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 7 minuti e 30 secondi dopo le 12 in diretta su Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'altra Europa, che è anche l'Europa della politica, anche l'Europa dell'economia, che viene comunque narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche di proporre altri punti di vista, un'Europa alternativa, quella che è l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa che non nasconde le sue tante criticità, però insomma c'è anche un'Europa che funziona e cerchiamo di sottolinearla dando voce ai protagonisti. Euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo con tante altre radio europee, radio24.it invece, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata e trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, tutto ciò anche sulle nostre bacheche virtuali, Facebook e Twitter, il mio account è Federico Taddia. Queste tutte le coordinate, ogni settimana un viaggio, oggi si parte pedalando. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is chiama Cycling Festival Europe 2016, è un festival che tenta di educare, di divulgare la passione per la bicicletta, è promosso, organizzato ogni anno dall'Olanda, paese che di fatto appunto ha portato la bicicletta ad essere la propria bandiera. Olanda, presidente del Consiglio, alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, il suo semestre, quindi sta coinvolgendo in questo festival tanti paesi europei. In Italia in particolare con una bella iniziativa, si chiama Borracce di Poesia, un'iniziativa ideata da qualche anno da Alessandro Ricci, giornalista, ciclista e poeta e ospite oggi dell'Altra Europa. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno, ciao, grazie allora. per la telefonata, grazie per il contatto. Che cos'è Borracce di Poesia e cosa c'entra Borracce di Poesia con l'Olanda? Allora, Borracce di Poesia è un progetto che unisce le mie due grandi passioni, che sono per l'appunto la poesia e bicicletta. Sono delle rime, delle micro storie in quartina che raccontano avventure e disavventure dell'andare in bicicletta, con particolare riferimento al ciclista urbano, quindi la bicicletta come mobilità nuova, la bicicletta utilizzata per spostarsi in città come intermodalità. C'entra con il governo olandese perché ho inviato una semplice mail agli organizzatori del Cycling Festival Europe, i quali dopo 5 giorni, cosa invece molto rara con l'Italia, se mi permetti una nota poetica, una nota critica, poetica e polemica, poetica, esatto. Poetica e polemica, hanno risposto dicendo: oh che bello, entriamo in contatto, che cosa possiamo fare con le Borracce di Poesia. Ne ho quindi preparate un 500 e le ho spedite a Berlino, che è il fulcro dell'organizzazione di questo Cycling Festival Europe, e da Berlino stanno viaggiando per l'Europa, ognuna con un rotolino di poesia all'interno, quindi una delle rime del progetto in inglese. In italiano sono arrivato a quasi 200 rime, in inglese un po' di meno, siamo sulla cinquantina, però appunto, come dire, splittate all'interno delle borracce, diventano gadget della manifestazione e degli eventi che partiti qualche giorno fa proseguiranno invece fino a fine giugno per celebrare per l'appunto questo Cycling Festival Europe, che è un evento che in occasione della appunto, come ricordavi tu, della presidenza olandese del Consiglio dell'UE, il governo olandese ha pensato di organizzare per promuovere all'interno delle ambasciate e non solo degli eventi dedicati alla bicicletta, con la bicicletta vista non solo dal suo punto di vista sportivo, anzi in questa occasione c'entra ben poco il punto di vista sportivo della bicicletta, ma appunto della bici da utilizzare per spostarsi in città. Questo in un paese dove il primo ministro si sposta con la bicicletta, cioè l'Olanda, un paese dove i reali, ovviamente l'Olanda non l'Italia, si spostano in bicicletta, e un paese dove a fronte di 17 milioni di abitanti ci sono più di 22 milioni di biciclette. Quindi insomma, ecco. E insomma, i tuoi messaggi in borraccia, proprio per portare anche divertimento, poetica, ma anche cronaca, perché la tua è una cronaca quotidiana, quella che metti in rima. Sì, sì. Immagino che le rime inglesi non siano state mere traduzioni dell'italiano, perché è difficile. Le rime ovviamente non le ho tradotte da solo, insomma mi sono fatto aiutare da un'amica insegnante di inglese, quindi ovviamente madrelingua, Laura mi chiamava, che è stata, devo dire, brevissima, perché ha rispettato la metrica dell'endecasillabo della quartina, e quindi ovviamente anche le rime ovviamente sono state non tradotte alla lettera, certo, ma riscritte e adattate. Ma esatto. quante ne hai scritte da quando hai iniziato a pedalare con le parole? Sono quasi più di 200 in italiano in questo momento. Tantissime. E sono tutte, derivano tutte quante da, come dire, scene, sono tutte quante scene di vita vissuta, nel senso che derivano dalla vicinanza di un radiatore al polpaccio quando si avvicina all'incrocio, sì. Derivano da paroline alle volte non sempre cordiali che ci si scambiano con gli automobilisti, derivano però anche da magari il racconto di una semplice pedalata la sera d'estate lungo dalla riviera con il battito del cuore. Ne hai una pronta, che è un po' la bandiera o la prima che ti va? Sì. Allora, è la prima che ho scritto, quella dalla quale poi è nato tutto, quindi è lei la responsabile. Perfetto. Allora, la bici è metafora di vita, in discesa, pianura o salita, è questione di cambio di rapporti e risultati da come ti comporti. Una vita raccontata in rima, borraccedipoesia.it per conoscere l'intero progetto di Alessandro Ricci, oppure cyclingfestivaleurope.eu è il portale di questo festival europeo dedicato alla bicicletta, alla sostenibilità e a una nuova mobilità. Grazie davvero Alessandro, buone pedalate! Grazie mille, buona giornata! Un euro postit, il traffico in questo caso di chi si muove in macchina, e poi ancora qua con l'altra Europa. Euro postit. 7 itinerari tra storia e arte ebraica a Venezia. In occasione del suo cinquecentenario, il ghetto di Venezia è stato inserito nell'itinerario del Consiglio d'Europa, volto a preservare la memoria del popolo ebraico in 30 paesi europei. Chi volesse scoprire la storia degli ebrei in Laguna può munirsi di una mappa realizzata ad hoc con 7 percorsi. La Venezia cosmopolita, le sinagoghe del ghetto, i mercanti ebrei, le residenze delle famiglie ebree fuori dal ghetto, la musica e il teatro e infine la beneficenza e la salute. Per maggiori informazioni sulle celebrazioni dell'anniversario, veniceghetto500.org. Per sapere tutto invece sugli itinerari europei del patrimonio ebraico, jewishheritage.org. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta L'altra Europa. Bye. Sviluppare l'internazionalizzazione dei sistemi nazionali di volontariato, è questo lo scopo di un progetto sperimentale selezionato e finanziato dalla Commissione Europea, in cui l'Italia è partner attraverso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, insieme a Francia, Lituania, Lussemburgo e Regno Unito. Un progetto che si chiama Evo Fall Whore, che in Italia è sostenuto e progettato, vede il FOCSIV come ente promotore, ed è quello che viene chiamato un po' il primo passo, forse il primo step di quello che potrebbe essere il servizio civile europeo. Si stanno formando i primi 50 volontari di questo progetto sperimentale. Ne parliamo con Lucia De Smaele, che è responsabile dell'ufficio servizio civile di FOCSIV. Ciao Lucia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Allora, ho detto bene, vero? È il primo passo di quello che potrebbe essere questo servizio civile europeo. Ci puoi spiegare un po' qual è l'obiettivo e qual è la finalità ultima? Sì, senz'altro, diciamo, l'obiettivo di questo progetto sperimentale, come dicevi giustamente, era di intanto sviluppare una dimensione europea di quelle che sono le esperienze, le possibilità per i giovani di fare un'esperienza di volontariato anche all'estero nel contesto europeo, di confrontare le politiche giovanili dei diversi paesi interessati. Il nostro obiettivo come FOCSIV ovviamente è quello di sperare nella costruzione domani di un servizio civile europeo che metta insieme un po' le qualità migliori delle esperienze dei diversi paesi. Uh-huh. E quindi è anche per questo motivo che abbiamo deciso di partecipare anche noi a questo bando particolare con altri enti italiani e partecipare e presentare dei progetti che faranno appunto iniziare questa avventura a 50 volontari italiani su un totale invece di 500 del contingente europeo. E FOCSIV, ACLI e CESC sono le tre associazioni impegnate nei sei progetti. Ma Lucia, noi abbiamo conosciuto in questi anni il Servizio Volontariato Europeo, lo SVE. Che differenza c'è o dovrebbe esserci tra il Servizio Civile Europeo e lo SVE? Beh, sono due esperienze diverse. Diciamo che lo SVE è sicuramente stata un'esperienza fondamentale negli anni per chi voleva fare appunto un'esperienza di solidarietà, e dentro questa esperienza ci sono anche occasioni di breve durata, quindi uno SVE può anche durare pochi mesi, mentre ad esempio il servizio civile in Italia dura normalmente un anno. È legato appunto a delle diversi ambiti di attività. Fino a qualche anno fa lo SVE si poteva fare anche fuori dai confini europei, sì. Infatti la FOCSIV aveva promosso una serie di progetti in ambito internazionale, perché siamo una federazione di organizzazioni che si occupano di sviluppo nei paesi del sud del mondo, quindi i nostri SVE sono stati un po' lontani. Adesso invece con il nuovo programma Erasmus Plus è un po' più difficile poterlo fare, e quindi diciamo la possibilità per chi vuole fare uno SVE rimane legata nei confini europei. L'idea di un servizio civile che sia europeo potrebbe essere per noi assolutamente un obiettivo importante, perché legherebbe appunto le finalità di adesso della normativa italiana, quindi una difesa della patria in senso ampio del termine, in termini con azioni non violente, e anche una cittadinanza attiva che è non solo italiana ma europea. Quali sono le motivazioni che hanno spinto questi 50 giovani a partecipare al vostro progetto? Nel nostro progetto in particolare, che si chiama GIVE, Giovani Volontari Italiani per i Diritti dell'Europa, ci sono 12 volontari dei 50 italiani che hanno iniziato l'esperienza. Sicuramente bisogna chiederlo a loro perché si sono candidati. Diciamo che noi quelli che abbiamo selezionato sono giovani che vogliono magari anche per la prima volta fare un'esperienza fuori dai confini nazionali e sperimentare un'occasione di solidarietà anche su tematiche che a loro sono di interesse particolare, proprio legate alle attività del nostro progetto. Abbiamo invitato una dei 12 giovani appunto che partecipano al vostro progetto. Si chiama Lida Bisogno, 26 anni, di Salerno, una laurea in pedagogia, e andrà in Romania. Ciao Lida. Ciao, ciao a tutti. Cosa ti ha spinto? Cosa mi ha spinto? Perché ho scelto questo progetto perché in questo momento combina due miei desideri, che sono un po' quelli che ha accennato Lucia, cioè quello di poter fare un'esperienza all'estero, perché per me sarebbe la prima volta, e poi perché mi piacerebbe imparare, comunque vorrei acquisire maggiori competenze in un ambito che è quello educativo e quello in cui vorrei agire anche in futuro. Mm-hmm. Ecco, ma se pensi a questi 6 mesi, sono 6 mesi che stai donando allo Stato, sono 6 mesi che stai donando ad altri, sono 6 mesi che stai donando a te stessa? Un po' di tutto, è un donare, un dare e ricevere, è così, è circolare questo dare. Sai già quello che andrai a fare? Sì, so che comunque lavoreremo insieme soprattutto a bambini, adolescenti che vivono comunque in un contesto problematico e ci occuperemo di educazione, di animazione, anche di cittadinanza attiva, anche con i genitori andremo a lavorare insieme. Insomma, possibilità per incidere. Grazie davvero a Lida, in bocca al lupo per i tuoi 6 mesi. Lucia, 6 mesi non interamente vissuti all'estero, c'è anche un periodo di formazione, che anche questa forse è un po' una novità rispetto allo SVE. Sì, assolutamente, un'attenzione che già il Servizio Civile in Italia ha rispetto alla formazione dei volontari, rispetto allo SVE che prevede una formazione molto breve, ma questo progetto all'interno di Evo for All proprio prevede un percorso importante formativo e aggiunge alla formazione classica che si fa per tutti i volontari in servizio civile, sulla storia anche del servizio civile, il senso anche della cittadinanza attiva, si aggiunge una formazione specifica e una formazione linguistica, quindi anche chi non aveva delle competenze linguistiche, ad esempio in portoghese, noi abbiamo dei ragazzi che andranno in Portogallo, potranno seguire 3 settimane di formazione linguistica per prepararli per l'esperienza. Alla fine sono circa 2 mesi dei 6 che sono dedicati alla formazione, una parte prima e poi una parte finale in conclusione. Non si va allo sbaraglio, ma insomma si va con gli strumenti necessari per questa importante attività. Grazie davvero a Lucia De Smaele. www.ivoforhall.eu, il sito del progetto, dove for è scritto 4, quindi Ivo 4 Hall, oppure www.foxiv.it, che è il sito dell'associazione. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. We are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth, that one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky one. Most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures. Impegno, servizio, incontro, contaminazione, cittadinanza attiva, tante parole abbiamo sentito ora parlando di servizio civile, ma non bisogna essere associazioni grandissime, non è che bisogna essere in tantissimi per poter cercare di portare un po' di Europa e un po' di opportunità europee nel proprio territorio. E la vostra storia, la prossima storia lo dimostra e lo testimonia. Ferdinando Di Ruocco, 22 anni, fondatore di Active Youth for Europe. Ciao Ferdinando. Ciao, salve, buona giornata. Sei giovanissimo, chi sei e chi siete? Diciamo che la nostra storia è un po' nata per caso, no? Per gioco. Un paio d'anni fa, scherzando su varie opportunità e volendo andare in vacanza da qualche parte, siamo partiti allo sbaraglio, ma ora ci sta bene la parola, e siamo andati, abbiamo partecipato a un progetto Erasmus Plus in Croazia. Ma con un gruppo di amici? Eravamo solo in 3 in quel momento, uh-huh. Eravamo in 3, partivamo come partecipanti italiani, ed è stato il nostro primo contatto, diciamo, con il mondo che è quello della progettazione europea, con l'Erasmus Plus. Abbiamo visto cosa si può fare, come partire, spendendo poco, quasi nulla, e quindi questo è stato un grandissimo vantaggio ed è una cosa che abbiamo portato poi con noi quando siamo tornati a casa, cercando di raccontare questa storia a tutti. Dopo quel momento ci sono state molte altre occasioni per partire, e una delle ultime in Bulgaria, dove abbiamo conosciuto dei ragazzi, mi ha detto: guarda, voi non avete bisogno di un'associazione, di un'organizzazione, di chissà cosa per cominciare ad entrare in questo mondo che è quello dell'europrogettazione, ma potete farlo anche da singoli individui, quindi formate un gruppo informale, non avete bisogno di un qualsiasi cosa di legale, ma basta che siete un gruppo di giovani che siete attivi nelle politiche giovanili e che avete voglia di fare qualcosa. Diciamo che quello è stato il nostro, ci ha dato un segnale, un messaggio di dire guarda, possiamo partire anche dal niente, e 4-5 di noi di una città vicino Pompei che è chiamata Santa Maria della Carità, poco conosciuta, non è famosa per chissà cosa, e ad ottobre abbiamo presentato questo progetto da fare a Pompei, che abbiamo sviluppato, abbiamo vinto a dicembre, che abbiamo già fatto a marzo, e ne racconto tuttora con una grandissima emozione, sono emozionato anche come se fosse la prima volta in cui io stia parlando del progetto, che è veramente stata una grandissima emozione. Perché stai un po' ricordando appunto la nascita di questo scambio culturale approvato dall'Agenzia Nazionale Giovani. Ma Ferdinando, cosa significa e quali sono anche le difficoltà nel tentare di portare un po' di Europa nella provincia, in questo caso la provincia campana, ma guarda, può valere per qualsiasi altra provincia italiana? Sì, ti voglio rispondere direttamente con una cosa che mi è venuta in mente proprio ora. Lo scorso febbraio ho partecipato a un progetto, un training a Birmingham, in Inghilterra. E una mia amica dall'Inghilterra diceva guarda c'è posto per altri due ragazzi, e ho detto vabbè guarda non ci vuole niente trovare un paio di ragazzi, lo dico un po' in giro, tutti un po' diffidenti, vado a dire un paio di miei amici, dico guarda c'è questa opportunità di partire per Birmingham a costo zero, vitto e alloggio pagati, ti danno 270 euro di rimborso viaggio. No, mi stai prendendo in giro, è impossibile che questa cosa sia vera, qui qualcuno vuole fare soldi. Io ho fatto, guarda, no, assolutamente, i ragazzi sono venuti con me, quando sono stati là veramente vedevano che la cosa era reale, che sono anche fidati di me, per me è stato bellissimo perché i ragazzi non credevano ai loro occhi di poter fare una cosa del genere, di partire senza spendere soldi, e di fare comunque delle attività importantissime anche per la loro formazione, perché qui parliamo non solo di viaggi, parliamo di formazione, di acquisire nuove competenze, di sviluppare le proprie attitudini, è un qualcosa che serve tantissimo, al di là del viaggiare nel senso di vedere nuovi posti, conoscere nuove persone. Si acquisiscono appunto abilità formali e informali che sono fondamentali. E Ferdinando, c'è una pagina Facebook, vero, per conoscervi, ce la vuoi ricordare? Active Youth for Europe, che è nata proprio questa settimana, lunedì scorso, perché abbiamo deciso di formarci, di costituire quindi una vera e propria associazione no profit, ovviamente, un'associazione di promozione sociale, il cui nome è Active Youth for Europe, e stiamo continuando, perché comunque stiamo seguendo quello che abbiamo già fatto, perché dopo che il progetto è stato fatto una volta abbiamo detto vabbè, può essere stata anche fortuna, perché non riproviamo e cerchiamo di rifare un qualcosa, visto che il primo tema era quello della disoccupazione giovanile, abbiamo detto perché non proviamo a fare qualcosa che porti sempre la nostra terra in giro per l'Europa, quindi persone da altre parti d'Europa possono scoprire quali sono anche le note positive, no, della nostra rete di Pompei, di Napoli. Quindi ci sono altri progetti, ma rimarremo sicuramente in contatto e ci seguiremo, ci ritroveremo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa per raccontare quello che vi inventerete. Ciao e buon lavoro, grazie Ferdinando. Buona giornata. Ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con l'Altra Europa. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. L'Altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa e ancora la cultura protagonista del nostro programma, come spesso facciamo, perché crediamo che la cultura sia il vero cemento, il vero ossigeno di questa Europa. Talento, innovazione e creatività, le tre parole chiavi del Forum Europeo della Cultura che si è tenuto a Bruxelles il 19 e 20 aprile, una due giorni di dibattiti, di sessioni, anche insomma di belle notizie. Ne parliamo con Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e ospite all'Altra Europa. Buongiorno Silvia. Buongiorno, grazie di questa ospitalità. Una due giorni intensa. Due giorni intensi, il Forum Europeo è stato partecipatissimo, 900 persone hanno seguito due giorni di lavoro. Io ho avuto il ruolo, insomma anche l'onore di aprire il forum lunedì insieme al commissario Navracsics e ho pensato proprio che fosse giusto dare un po' il segnale delle strategie che come Parlamento Europeo, come Commissione Cultura, noi chiediamo di sostenere da parte della Commissione, che finora è stata piuttosto un po' evanescente sul tema cultura, ma mi sembra che ci siano tutte le condizioni per un grande rilancio. Tra l'altro vorrei dire che, e questo è stato detto da molti italiani presenti in questa occasione, che l'Italia ha avuto un gioco di primo piano, perché oltre alla sottoscritta poi c'è stato anche l'intervento del ministro Franceschini e il giorno dopo anche della Federica Mogherini, che finalmente ha annunciato questa comunicazione su una nuova diplomazia culturale europea che aspettavamo da tempo. Per quanto mi riguarda, credo che una delle notizie più importanti è stata sicuramente quella che finalmente la mia grande battaglia insieme, non da sola, ma insomma alla fine la stretta finale l'abbiamo vinta insieme al presidente Schulz, sì, con una commissione che non era molto d'accordo, è stata quella che il 2018 è stato finalmente deciso che sarà l'anno europeo del patrimonio culturale. Insomma, questa evanescenza della commissione siete riusciti un po' a... Sì, perché adesso abbiamo aperto molti fronti e poi dopo... Io penso che la distruzione del patrimonio così vicino all'Europa, uh-huh, e sulla quale noi siamo stati il primo Parlamento, come si ricorda, che si è espresso dicendo che questo è un crimine contro l'umanità, è come se avesse fatto percepire la preziosità e l'importanza di questo, e dall'altro siamo di fronte alla più grande sfida culturale, che è quella del dialogo interculturale, della nuove modelli educativi in Europa, anche per l'integrazione. Insomma, tutto questo secondo me sta finalmente facendo capire, anche per quanto riguarda la crescita e l'innovazione, che senza nuove competenze, nuovo investimento nell'educazione e in un grande spazio europeo dell'educazione, della ricerca e della cultura soprattutto, non c'è né politica estera, né politica delle migrazioni o della sicurezza, ma soprattutto non c'è politica di sviluppo. Oggi noi abbiamo aperto tre linee forti. Una è quella di un rapporto di iniziativa del Parlamento che stiamo facendo con la Commissione Industria per la prima volta sulle industrie culturali e creative che vanno rilanciate, e il nostro collega Morgano è relatore per la cultura. Sul fronte della nuova strategia digitale europea siamo impegnati sui temi della riforma della cosiddetta direttiva BMS, quella che si chiamava un tempo Televisioni Senza Frontiere, perché ormai abbiamo la sfida dell'online, della rete, delle piattaforme, e quella del copyright. E poi c'è la grande altra importante annunciata strategia sulla quale abbiamo chiesto che sia completamente coinvolti le competenze nel campo culturale e creativo. Parlo delle nuove skills, cioè le nuove competenze, il pacchetto che dovrà presentare la commissaria Thyssen insieme a Navracsics. Quindi ci sono finalmente, si spera, e noi abbiamo chiesto anche nuove risorse e nuove policies, nuove politiche culturali ed educative, non soltanto i programmi importanti Europa Creativa e Erasmus Plus. Quindi, oltre alla notizia, appunto, anno europeo del patrimonio culturale 2018, e queste le prospettive che, come sempre, ci ha tratteggiato con competenza e soprattutto entusiasmo. Soprattutto nel senso che non perché ci sono poche competenze, ma perché insomma è una delle tue grandi caratteristiche. Grazie davvero a Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Buon lavoro, Silvia. Grazie, arrivederci e buon lavoro a voi. Grazie. Europost-it. European Alternatives, opportunità di tirocini in Europa. Siete studenti universitari e volete fare un'esperienza europea? European Alternatives è un'organizzazione transnazionale della società civile che promuove democrazia, uguaglianza e cultura. L'associazione, attiva in tutto il continente, organizza iniziative, progetti ed eventi pubblici per la promozione della cittadinanza attiva e delle politiche giovanili. Per presentare la vostra candidatura a svolgere un tirocinio presso i suoi uffici, inviate curriculum, lettera motivazionale e disponibilità all'indirizzo info@euroalter.com. Maggiori informazioni collegandovi al sito euroalter.com. Questi sono i nostri Europost-it, radio24.it, per poterli ritrovare oppure sulle nostre bacheche virtuali, Facebook e Twitter, @FedericoTaddia, il mio account. Adesso ci spostiamo idealmente in Cina, a Shanghai, dove in queste ore si sta tenendo il China International Technology Fair, una grande fiera dei progetti innovativi, anche legati alla didattica. Tra questi progetti c'è un'eccellenza italiana promossa dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, se non erro, dell'Università La Sapienza di Roma, un progetto che si chiama Innefanzia Digitale, un progetto finanziato anche da fondi europei. Con noi uno dei promotori, diamo il benvenuto al professore di comunicazione dell'Università, professore di comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, il professor Mario Morcellini. Buongiorno Morcellini. Buongiorno a tutti voi. Buona innovazione a tutti. Ci sono tantissimi attori coinvolti in questo progetto, spero di non aver fatto torto. Mi piacerebbe molto che fosse stato il mio dipartimento che dirigo più esattamente, a promuoverlo, ma è ancora più bello dire che sono stati 4 grandi, rilevanti, prestigiosi partner tecnologici come Engineering, uno dei leader dell'ingegneria informatica, Fastweb, Interactive Media e il consorzio iCampus, e 4 altrettante, anche qui ci piace l'equilibrio, grandi università distribuite da Trento, Sapienza, Napoli, Salerno. Quindi un grande lavoro di squadra, di cooperazione scientifica e tecnologica. Ed è bello che tutto ciò sia finalizzato a un target molto ristretto, perché stiamo parlando di infanzia, stiamo parlando dei bambini dai 3 ai 6 anni. Cosa vi siete inventati? Partiamo da questa frase che cortesemente hai detto. È bello che ci sia questa collaborazione, ma il tema è ancora più sconvolgente. Io non so se fin dall'inizio noi ci eravamo resi conto della portata di realtà, di scoperta, di problematica, di preoccupazioni e di rilancio della cura educativa era sottostante a riflettere, a mettere al centro bambini da 3 a 6 anni. Sono importanti per noi per 2 motivi, ce ne sono tanti, ma devo ovviamente selezionarli in un tentativo di divulgazione che non faccia torto a nessuno. Il primo è il fatto che in quella fascia di età i processi di influenza delle tecnologie hanno meno variabili che sugli adulti, e cioè lì puoi scoprire qualcosa di più dell'impatto, di qual è il punto di attacco delle tecnologie, del loro carisma, del loro potere di seduzione su una mente per di più ancora non del tutto formata. E questa è già una scoperta, cioè quando studi gli adulti l'affollamento delle variabili che possono complicare una spiegazione causale è enorme. Certo. Nei bambini, se escludi la famiglia, che in quell'età ovviamente ha un ruolo importante, l'influenza è quasi lineare, una roba che non esiste quasi in letteratura, fa pensare quasi al positivismo. Il secondo aspetto è etico e forse anche di politiche pubbliche. Chi ce lo fa fare di pensare che abbandoniamo i bambini da soli al fascino delle tecnologie in un'età in cui non sono minimamente formati, almeno dal punto di vista delle competenze che noi chiamiamo adulte? Non sempre gli adulti sono il luogo della maturità, ma diciamo sono almeno dal punto di vista dell'età e della formazione degli stimoli quelli più strutturati. Certo. Mario, ti chiedo, scusami, un minuto. Prego. Di pazienza, ci fermiamo perché abbiamo il clock obbligatorio per il traffico, poi torniamo immediatamente da te così ci racconti in sintesi questo progetto, in cosa consiste. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Mario Morcellini. Allora Mario, insomma, hai fatto la premessa e di fatto qual è il cuore del progetto ora? Il cuore è quello di intervenire sul fascino che il tablet, e ovviamente non lavorando solo però sul tablet, ha in quella fascia di età in cui, terzo elemento clamoroso, addirittura i bambini ancora non sono andati a scuola. Quindi è la prima volta che i bambini hanno una stimolazione cognitiva non sottoposta all'invenzione dell'educazione della storia dell'umanità, no? Tutti gli uomini sono andati a scuola e dalla scuola hanno appreso i saperi. Le tecnologie ormai arrivano prima, quindi noi abbiamo deciso, qui c'è stato qualche elemento di legame culturale anche con la lezione della Montessori, sì, con Munari, devo dire che gli psicologi ci hanno dato una mano decisiva, abbiamo deciso di utilizzare dei dimostratori molto simili a tablet che in qualche modo finalizzati alla formazione in quel momento dell'età, che potessero rappresentare uno sforzo di far diventare il fascino del tablet un alleato del processo di formazione del bambino a livello di linguaggi, di capacità di controllo, di stimolo alle relazioni e non più quindi lasciati soli con le tecnologie. Beh, già la suggestione Montessori, Munari, tablet vuol dire che insomma è veramente un lavoro di contaminazione culturale fondamentale proprio per fare un'educazione attiva alle nuove tecnologie. Grazie davvero a Mario Morcellini. Mario, però prima di salutarci ricordiamo un appuntamento importante. Qui sì che sei uno dei grandi protagonisti, perché credo che ci sia fortemente la tua volontà dietro. Si chiama Generazione Erasmus, un valore per l'Europa, una giornata intera dedicata alla mobilità internazionale in memoria delle studentesse Erasmus che hanno perso la vita in Spagna. Tutto ciò venerdì, una giornata che sarà particolare, vero? Molto importante, perché noi faremo un omaggio, partiremo da dal senso di un'istituzione che vuole dare la dimostrazione che non dimentica la morte di questi ragazzi, italiani e stranieri, in Spagna, ma su questo costruiremo un ragionamento pubblico con i genitori dei ragazzi morti, e quindi in una situazione tutt'altro che facile, per ricordare comunque che sono morti seguendo sogni, secondo un paradigma che i giornali hanno colto con efficacia, seguendo la loro vita per le strade del mondo. E quindi questo sforzo di apertura multiculturale deve continuare. Università La Sapienza di Roma, venerdì 29 aprile. Grazie davvero. Ciao Mario, buon lavoro. A presto, ciao. Una manciata di minuti per finire questa puntata parlando di letteratura, un po' perché vogliamo anche noi celebrare la giornata mondiale del libro, un po' perché a Roma si sta festeggiando il decennale della Biblioteca Europea di Roma e lo si sta facendo in un modo particolarmente creativo. Diamo il benvenuto a Paola Gaglianone, commissario per la gestione provvisoria dell'istituzione Sistema delle Biblioteche e dei Centri Culturali. Buongiorno Paola. Buongiorno. Buongiorno, abbiamo veramente pochi minuti e una parte di questo tempo lo vogliamo dedicare alla letteratura. Ci puoi veramente in sintesi raccontare il significato di questa giornata? Assolutamente, chi fosse stato qui con noi avrebbe fatto una full immersion nella letteratura europea. Noi oggi celebriamo il decennale della nascita di questa biblioteca europea e l'abbiamo voluto fare proprio facendo capire come attraverso la letteratura, attraverso la narrazione passino anche i valori dell'integrazione culturale. E quindi qui abbiamo nella biblioteca europea di Via Savoia, sì, in alleanza con il Goethe Institute, abbiamo voluto proprio offrire una full immersion insieme con il Teatro di Roma, nei testi classici più belli della letteratura europea, che sono stati letti stamattina in contemporanea dai ragazzi dell'Accademia Drammatica del Teatro di Roma, e c'era veramente un passaggio da un tavolo all'altro dove avevamo la possibilità di sentire testi da Karen Blixen a Cervantes a Sanguinetti, ed è stato veramente un momento emozionante, che ci ha dato il senso di come poi la costruzione di un immaginario come dire nuovo e integrato possa proprio essere costruito partendo dalla conoscenza della narrativa, conoscenza dell'arte, conoscenza comunque culturale degli altri paesi. Io credo che l'integrazione culturale sia più avanti di quella politica. Assolutamente. E vi diamo un assaggio anche noi, lo facciamo grazie alla collaborazione di un'autrice coinvolta in questo progetto, che è Ursula Folkman, che credo sia qua con noi. Ursula? Sì, buongiorno. Buongiorno a te. E abbiamo scelto un brano, vero? Un brano sì? Del Viaggio di Goethe. Cosa ci leggi? Allora, leggo proprio il suo arrivo a Roma il 1 novembre del 1786. Perfetto, noi ti mettiamo una base musicale, la base in studio, okay. La lettura al telefono non è facile, ma anche okay. Questo, vai. Roma, 1 novembre 1786. Sì, sono arrivato finalmente in questa capitale del mondo. Se l'avessi visitata 15 anni or sono, in buona compagnia, sotto la scorta di un uomo davvero intelligente, mi stimerei certo fortunato. Ma poiché dovevo visitarla da solo e vederla coi miei occhi soltanto, è bene che tanta gioia mi sia stata concessa così tardi. Eccomi ora a Roma. Tranquillo. E a quanto sembra acquietato per tutta la vita. Tutti i sogni della mia giovinezza ora li vedo vivi. Le prime incisioni di cui mi ricordo ora le vedo nella realtà. E tutto ciò che da tempo conoscevo in fatto di quadri, disegni, di rami o di incisioni in legno, di gessi o di sugheri, tutto ora mi sta raccolto innanzi agli occhi. E dovunque io vada, trovo una conoscenza antica in un mondo forestiero. Tutto è come lo immaginavo e tutto è nuovo. Non ho trovato nulla di completamente strano a me, ma i pensieri antichi mi sono diventati così precisi, così vivi, così concatenati l'un l'altro, che veramente possono passare per nuovi. E quanto è anche moralmente salutare per me il vivere fra un popolo dotato di tanta sensibilità, sul quale si è tanto parlato e tanto scritto, e che ogni straniero giudica secondo il criterio che gli porta con sé. Io perdono a tutti quelli che criticano o condannano questo popolo. Esso è troppo lontano da noi, e al forestiero costa troppa fatica e troppa spesa l'aver contatto con lui. Ursula Folkman, dal Viaggio in Italia di Goethe. Grazie davvero, Ursula, il nostro modo per celebrare il decennale della Biblioteca Europea di Roma, con il quale chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Claudia Schiatoni in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Filippo Urreggi invece alla parte tecnica. L'Altra Europa è radio24.it se volete contattarci. Ancora grazie, ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.